It was your trouble singer. Boy, kind of was. No, yeah, the little boy, Paladini, I'm proud of Tarant. Pisciando dietro un cross. Ma cagnetta non smetto. Che ci sia una notte. Il pane di dietro. Trova per essere a tutti. Quando striscia la braccia. Noi gana drogoi, papagine. Stamprare che sua. Vieni a fare il trovo e vai via. E se non mi hai scusa guarda. Vai in fare padut, vai in fare. Moi caravan, moi gana drogoi, paladine, campare e carra. Единственный шанс не упускай. Ведь это другой половина.